legionari, largo, fate largo al vostro imperator. Cesare, son Cesare, al suono del mio nome, tremano i nemici vinti dal terror. Son giunto in Egitto inseguendo Pompeo, che il mio dominio non vuole accettar. Morto lui per mano dell'infido Tolomeo, più nessuno mi potrà fermar. Gallia e Ispania, Lidia e Pannonia, ed ora anche l'Egitto è mio. Conquisterò la terra con le armi e con la guerra, la pace io difenderò.